Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Sono sicuro che se vi dico la parola spazzacamino, più che pensare all'antica professione in disuso ormai, più che immaginarvi un uomo tutto sporco di fuligine, carico di spazzole, spazzoloni neri per alla ricerca di camini da pulire o di canne fumarie, insomma, vi verrà alla mente sicuramente alla parola spazzacamino un certo particolare personaggio, il più famoso di tutti, quello che ha popolato i sogni di milioni di bambini in tutte le parti del mondo. Vi verrà in mente lui, Bert, lo spazzacamino simpatico, straordinario, l'artista di strada, l'amico della tata più famosa della storia, cioè Mary Poppins. E di lui vi tornerà alla mente quella canzone talmente bella da aver fatto vincere nel 65 l'Oscar per la miglior canzone originale ai suoi compositori fratelli Robert e Richard Sherman. La canzone è Can Camini. E noi vogliamo raccontare la storia del grande attore che ha interpretato Bert. È un attore poliedrico, è uno che recita, canta, balla in maniera straordinaria, il tipico attore americano che sa fare tutto. Nel 64, ai tempi di Mary Poppins, lui aveva già 39 anni, anche se non li dimostrava. A tutt'oggi è fortunatamente in vita e a 92 anni continua imperterrito a recitare, a cantare, a ballare con grande maestria. Il nostro protagonista di oggi è Dick Van Dyke. È famoso in tutto il mondo per la sua partecipazione a Mary Poppins, ma molto noto soprattutto negli Stati Uniti per tantissime altre interpretazioni di grande successo. Forse da noi è meno conosciuto, però vedrete che nel corso della puntata, man mano che racconteremo le tappe della sua carriera, vi capiterà di dire: ma è lui anche lì, e vi stupirete delle sue capacità mimetiche. Dick Van Dyke nasce a West Plains nel Missouri il 13 dicembre 1925. Il suo cognome indica chiaramente una origine olandese, e lui sottolinea nelle interviste che non si tratta di un nome d'arte. L'anno scorso si è presentato così a un intervistatore televisivo: My name is Dick Van Dyke, not a stage name. In two weeks going to be 91 and some people say I'm an actor, but it depends on who you ask. Il mio nome è Dick Van Dyke, non è un nome d'arte, tra due settimane compierò 91 anni e alcuni dicono che sono un attore, ma dipende a chi lo chiedete. Quindi un personaggio molto simpatico, con autoironia, cioè quest'aria quasi da inglese più che da americano. È uno che calca le scene da 70 anni e ha avuto una carriera lunghissima, iniziata da ragazzino per puro caso. E sì, perché in realtà lui avrebbe dovuto fare il prete, la famiglia della madre era molto religiosa e era stata proprio presa in considerazione l'eventualità che lui prendesse i voti. Poi viene coinvolto a scuola in una commedia teatrale che gli fa scoprire la sua vera vocazione, recitare. Così nel 44, al termine delle scuole superiori, entra a far parte dell'aeronautica militare, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, dovrebbe seguire un corso da pilota, ma è troppo magro e quindi viene scartato, lo mettono a lavorare come annunciatore radiofonico dall'emittente che trasmette per le truppe, viene trasferito ai servizi speciali come intrattenitore al fronte. E questa esperienza radiofonica è fondamentale agli inizi della sua carriera. È appena terminata la guerra, Dick Van Dyke diventa DJ. Nel 47 forma un duo col mimo Phil Erickson, con il quale ha un discreto successo per molti anni. The Merry Mutes, così si chiamano, girano per gli Stati Uniti con un numero particolare, un mimo e un intrattenitore. Partecipano anche a molti show televisivi. Però il primo grande colpo d'ala Dick Van Dyke lo dà nel 1960. Viene scelto come interprete maschile principale nella commedia musicale di Broadway Bye Bye Birdie, un musical di grande successo che si aggiudica ben 4 Tony Award, in pratica l'Oscar del teatro e dei musicisti. Dick Van Dyke vince il Best Actor, sarebbe l'equivalente dell'Oscar al miglior attore protagonista. È un traguardo straordinario che lo catapulta nell'Olimpo delle star statunitensi. Beh, adesso l'avete sentito cantare, non lo potete vedere ballare e recitare, però il semplice fatto che abbia vinto il Tony Award per questa interpretazione ci fa capire quanto sia stato bravo in tutto, un attore completo. Lui aveva esperienza come mimo, come attore, non aveva mai ballato o cantato in vita sua. Ascoltate questa dichiarazione proprio riferita alla sua partecipazione a Bye Bye Birdie. Non avevo mai fatto niente, mai ballato. Quella era la prima volta che ballavo e cantavo e me ne sono innamorato perché era come volare. Eh sì, avete capito bene, lui vince il più prestigioso premio di Broadway, che premio che hanno vinto Yul Brynner, Henry Fonda, Al Pacino. Lo vince senza aver mai preso una lezione né di recitazione né di canto né di ballo. È un talento naturale nato con quelle doti. Il successo di Bye Bye Birdie e il Tony Award portano grande popolarità a Dick Van Dyke, e questo sfocia, come succedeva in America, succede ancora adesso, in un progetto televisivo destinato a essere uno dei più grandi successi dell'epoca, e lo consacra presso il grande pubblico, il Dick Van Dyke Show, una sitcom molto divertente, piacevole, adatta a tutti, incentrata sulle vicende domestiche di Ron Petrie, interpretato appunto da Van Dyke, sceneggiatore di un immaginario show televisivo prodotto a Manhattan. The Dick Van Dyke Show, starring Dick Van Dyke. Il successo di questa sita è tale che da una stagione le stagioni diventano 5. Il Dick Van Dyke Show va in onda dal 3 ottobre del 61 fino al 7 settembre del 66, 158 episodi. Van Dyke è affiancato da un'attrice giovane, si chiama Mary Tyler Moore, destinata anche lei a una brillantissima e lunga carriera. Questa attrice interpreta la moglie Laura. Tra l'altro in questa sitcom compare anche Jerry Van Dyke, che è il fratello minore di Dick Van Dyke. Eh sì, perché i Van Dyke sono una generazione di attori, poi vedremo arrivare in scena anche i figli di Dick e anche i nipoti, insomma un figlio in particolare. Questa sitcom è talmente amata dagli americani che in un sondaggio realizzato nel 97, quindi a 30 anni dal termine della sua messa in onda, alcuni di questi episodi vengono inseriti nella classifica dei 100 episodi di sitcom più belli di tutti i tempi, e lì sono tante le sitcom che sono state fatte in America. E Dick Van Dyke vince con questa interpretazione 3 Emmy Award, l'Oscar televisivo come miglior attore protagonista. Anche qui naturalmente non solo recita ma balla e canta. Poi nel 63 finalmente c'è l'ingresso di Dick Van Dyke nel mondo del cinema, è protagonista del film Bye Bye Birdie, la trasposizione del musical che lo aveva reso celebre 3 anni prima. Il successo del film è grandissimo, Dick Van Dyke ormai ha superato ogni barriera, ha saputo uscire da quei cliché che spesso imbrigliano gli attori in un determinato ruolo, anche in un determinato media, per cui un attore televisivo magari non riesce a sfondare o addirittura solo a essere scelto per un film o per un musical. Lui riesce a passare da una parte all'altra, ha fatto veramente tutto, e quando Walt Disney si appresta a realizzare quello che sarà riconosciuto come uno dei suoi più grandi capolavori, pensa proprio a lui. Capolavoro è Mary Poppins, l'abbiamo detto, e Walt Disney sceglie Van Dyke per il ruolo di Bert, l'artista di strada, lo spazzacamino amico della protagonista. Questo nonostante i responsabili del casting propongano nomi come Fred Astaire e Cary Grant. Mary Poppins è un film che probabilmente abbiamo visto tutti, è un capolavoro senza tempo, tratto dai romanzi di Pamela Lyndon Travers, che dall'anno della sua produzione non ha subito le mode. Stiamo parlando del 64, uno dei capolavori disneyani più amati dai grandi, dai bambini, una favola bellissima, e in testa c'è lei, Mary Poppins, Julie Andrews, che vincerà l'Oscar con Mary Poppins, e poi c'è lui, Bert, lo spazzacamino, il divertente uomo orchestra di strada che affascina i passanti con le sue buffe esibizioni. E Dick Van Dyke viene scelto con grande lungimiranza da Walt Disney. Ascoltate il ricordo dell'attore. C'era qualcosa, un incredibile spirito in quella produzione fin dal principio. Walt mi invitò nei suoi studios e per la prima cosa i fratelli Sherman mi fecero sentire la colonna sonora. Qualcosa di assolutamente straordinario. Non ci potevo credere. Poi Walt mi mostrò le scene del film, tutte appese alle pareti. Gli storyboard a disegni che riempivano parecchie stanze. Uscii di lì che camminavo sulle nuvole. Sapevo che stava per succedere qualcosa di speciale. La cosa strana era che la Travers, l'autrice del libro, non aveva approvato niente, nemmeno me. Nella sua idea, Mary Poppins era una robusta piccola donna di mezza età. L'autrice non pensava che dovesse essere bella. Ma questo è stato il genio di Walt Disney. E Julie è stata grandiosa. Ha disegnato un personaggio che vivrà per sempre. Sì, e poi ci sono le canzoni, canzoni che hanno fatto la storia. Molte di queste sono cantate ovviamente da Mary Poppins, da Julie Andrews, ma ce ne sono anche altre cantate da Bert. Una l'abbiamo già ascoltata all'inizio della puntata, Cam Camini. Altro momento chiave del film è un momento in cui lui, Van Dyke, mostra tutta la sua abilità sia come cantante che come ballerino. È il momento della passeggiata che lui compie assieme a Mary, ai bambini, nel mondo incantato dei cartoni animati, quando lui balla in maniera esilarante con alcuni pinguini camerieri. C'è un aneddoto riguardo a questo film che pochi conoscono. La vicenda è ambientata nella Londra del 1906. Van Dyke, nel tentativo di rendere più credibile il suo personaggio, lo fa parlare con un accento particolare, quello che a Londra viene identificato con il termine di Cockney, il dialetto londinese parlato soprattutto dalla classe proletaria, e quello away, stay, tutto un po' particolare. Van Dyke, che è statunitense, parla un Cockney tutto suo, naturalmente. Esagerato in Gran Bretagna, dove il film non viene doppiato e quindi dove si sente la vera voce di Dick Van Dyke, questo accento viene aspramente criticato. Si dirà che l'attore prendeva in giro i londinesi e quel loro modo di parlare. Poi verrà definito dagli inglesi Mockney, un termine inventato che è la contrazione delle parole mock, cioè scimmiottamento, presa in giro, e Cockney, praticamente un finto accento costruito ad arte camuffando la pronuncia per sembrare quello che non si è. Pensate che The Empire, una notissima rivista britannica di cinema, dà i voti a tutti i film, alle interpretazioni, alle performance, e Dick Van Dyke arriva al secondo posto nella classifica del peggior accento mai esistito nella storia del cinema, dietro a Sean Connery nel film Gli Intoccabili, per il quale peraltro aveva vinto l'Oscar Sean Connery. Comunque, al di là di queste polemiche, che peraltro non hanno fatto altro che far parlare, aggiungere popolarità a Van Dyke, questo spazzacamino rappresenta uno dei perni chiave attorno ai quali ruota la bellissima vicenda di Mary Poppins. È un film che ha creato qualcosa che non era mai esistito prima. Aveva anche coniato una parola nuova, diventata famosissima, supercalifragilistica e spiralidoso. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è un grande attore, un attore completo, però un cantante, un ballerino, Dick Van Dyke, che deve la sua popolarità soprattutto al film Mary Poppins del 64. Lui lì interpreta il ruolo di Bert, lo spazzacamino simpatico, l'artista da strada amico della magica tata Mary Poppins di Julie Andrews. Dick Van Dyke però è molto di più che l'interprete di Bert. È un grande attore, un caratterista, un ballerino, un cantante che ha interpretato molti ruoli diversi in una carriera lunghissima che prosegue, perché a 92 anni lui è più che mai operativo. Ha ottenuto un successo enorme sia al cinema che in televisione che in teatro. Ma oltre a questo successo planetario, lui ha fatto veramente tante altre cose che scopriremo man mano. Tra l'altro, in quel film lui è anche l'interprete dell'anziano presidente della banca, il signor Davis, quello che cerca in tutti i modi di farsi dare i famosi 2 penny dal piccolo Michael Banks. È un ruolo che lui aveva fortemente voluto, aveva accettato di interpretarlo senza ricevere cachet. Quando mi diedero lo script, lessi la storia e sentii la canzone di Mr. Davis e semplicemente mi vidi fare quel personaggio. Andai da Walt e gli dissi: non voglio un compenso aggiuntivo, non è affatto importante. E Walt mi disse: certo, prova, fai un test. Fu molto accondiscendente. Così feci il test. Gli piacque e ho avuto la parte. Dovevo arrivare la mattina molto presto per il trucco, che era molto complicato. Ci volevano almeno 2 ore. 2 ore tutte le mattine. E dovevo stare molto attento quando mangiavo per non rovinarmi la barba. Il trucco per trasformare Dick Van Dyke, che era uno giovane ai tanti, in un anziano, in Mr. Davis, è un trucco lungo e difficile. La trasformazione è talmente riuscita bene che pochissimi lo hanno riconosciuto, anche perché nei titoli di coda il personaggio risulta essere interpretato da un attore che si chiama Nacvid Cade, e solo all'ultimo secondo le lettere si scompongono e si riposizionano nel nome Dick Van Dyke, che in pratica era un anagramma. In molti quindi non se ne sono mai accorti. La canzone che canta Mr. Davis, padre, è una delle più divertenti di tutto il film, è la canzone, quella dei due miseri penny. Plantations of ripening tea. Il clamoroso successo di Mary Poppins e poi della sitcom The Dick Van Dyke Show regalano a Dick Van Dyke una carriera strepitosa che non ha soste e che si svolge in vari territori: televisione, teatro, cinema, diversi film di buon successo. Poi nel 69 un'altra grande interpretazione, quella di Caractacus Potts nel film di Ken Hughes City City Bang Bang, basato sul libro omonimo di Ian Fleming, il padre di James Bond. Il film è un altro film per bambini, un musical ricco di canzoni, di balletti, c'è un racconto intricato pieno di colpi di scena dove la protagonista è un'auto che si rivela magica. Ian Fleming inventa quest'auto ispirandosi a una vera auto, un prototipo di macchina da corsa con motorizzazione di derivazione aeronautica. Insomma, negli anni 20 erano state costruite queste macchine ed erano state battezzate proprio City Bang Bang. Gli autori delle canzoni di questo film e i coreografi sono gli stessi di Mary Poppins, squadra che vince non si tocca. Il produttore invece è Albert Broccoli, produttore già dei film di James Bond, e non era possibile doppiare il successo di Mary Poppins, che rimarrà sempre un classico inimitabile. Però per Van Dyke questo ruolo, il ruolo di Caractacus Potts, è un grande successo personale. Il pubblico rinnova tutto l'affetto su di lui, anche la critica ne parla bene. A questo punto lui ha un colpo d'ala straordinario, magari sconosciuto a tutti tranne che proprio ai grandi cinefili. Infatti lui accetta di interpretare contemporaneamente all'uscita di City City Bang Bang il ruolo di Billy Bright, un attore del muto che vive il dramma dell'avvento del sonoro. È una storia che ripercorre la vita dei grandi interpreti del passato come Buster Keaton o Harold Lloyd. Il film si chiama The Comic, è diretto da Carl Reiner, il produttore del Dick Van Dyke Show, che nella sua biografia afferma di aver voluto con questo film dare a Van Dyke la possibilità di esprimere le sue potenzialità di attore non solo comico ma anche profondamente tragico. È una prova d'attore eccelsa, poco conosciuta, poco pubblicizzata, perché l'immagine di Dick Van Dyke è quella più popolare e più vantaggiosa per i produttori, e quella dell'attore leggero di film per tutta la famiglia. Il falco e il gabbiano. E dopo il successo di City City Bang Bang, Dick Van Dyke continua nella sua carriera televisiva con una nuova serie del Dick Van Dyke Show. È una serie fortunata come la prima, si va dal 71 al 74, poi interpreta altri sceneggiati, personaggi in serie famose come Colombo con Peter Fall, partecipa a molti show televisivi che negli Stati Uniti hanno grande successo. Insomma, è una presenza costante, almeno in America. Da noi per qualche tempo non se ne sente più parlare. E lì continua a essere una star. però è irrequieto, si dedica anche a altro oltre alla carriera d'attore. Scrive un libro per bambini, Fede, Speranza e Ilarità, che è una serie di aneddoti divertenti sulla religione. Poi forma un gruppo musicale di canto a cappella, Dick Van Dyke and Vandastic, che si esibisce a scopo umanitario. Partecipa con questa strana band a molti spettacoli televisivi e ospite anche in importanti manifestazioni sportive. Insomma, raccoglie fondi a favore dell'infanzia. Lui è sempre stato sensibile a questo tema, alle problematiche dei bambini, e dalla prima moglie lui ha avuto ben 4 figli. Il repertorio dei Vandastic è infatti prevalentemente rivolto ai più piccoli. Nel 1990 Dick Van Dyke torna al grande successo internazionale perché Warren Beatty gli offre la parte del procuratore distrettuale corrotto John Fletcher nel film Dick Tracy, ispirato al fumetto omonimo. Il film è interpretato anche da Al Pacino e da Madonna, una parte anomala per lui, che ha sempre fatto l'eroe positivo, e qui, anche se ha un ruolo minore, viene fuori tutta la sua bravura di attore, tanto che subito dopo gli viene proposto il ruolo di protagonista assoluto in una serie televisiva destinata a riportarlo al grande successo dei tempi di Mary Poppins. Vi devo confessare che questa è l'unica serie televisiva che io ho visto nella mia vita, diciamo in quasi tutti gli episodi. Non so perché, ma mi è piaciuta subito. Il titolo italiano è Un detective in corsia, in lingua originale Diagnosis Murder, cioè Diagnosi Omicidi, un titolo forse migliore di quello italiano, che sminuisce un po' il valore di questa bellissima serie poliziesca, dove Dick Van Dyke interpreta il ruolo del dottor Sloan, Mark Sloan, direttore di medicina interna al Community General Hospital di Los Angeles. Lui è stato un ufficiale medico dell'esercito degli Stati Uniti e una volta terminato il suo servizio ha proseguito la sua carriera di medico, ma è consulente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Insomma, deve approcciarsi ai crimini con il sapere del poliziotto, ma soprattutto il sapere e la sensibilità del medico. In questo dipartimento lavora anche il figlio, il detective Steve Sloan, che è interpretato dal vero figlio, Barry Van Dyke, il secondogenito di Dick, attore televisivo di grande successo. Aveva già interpretato La signora in giallo, Magnum P.I., A-Team. E capita spesso che le indagini del figlio coinvolgano il padre e viceversa. Il padre spesso si avvale del rapporto del figlio in casi che si verificano dentro all'ospedale. Ma che dici, papà? Steve, c'ero io in sala operatoria. Era ridotto piuttosto male, è vero, ma il suo cuore era sano. Sembra che ci siamo scambiati i ruoli. Io sono della squadra omicidi e tu sei medico. E io penso che sia morto per le ferite riportate. E tu, che sia stato ucciso in ospedale. Dico soltanto che il suo cuore era a posto. E c'era qualcosa di strano nella flebo. Prima di andarmene era messa bene, ho controllato. Durante la notte è stata allentata. Beh, può essersi allentata per vari motivi. E poi non c'erano altre impronte, abbiamo controllato. Però qualcuno ha cercato di ucciderlo con la macchina. Sì, stiamo cercando chi è stato. E se la stessa persona si fosse intrufolata in ospedale per finire il lavoro? Papà, la sorveglianza ha detto che non è entrato nessuno durante la notte. C'è qualcosa che non mi quadra. Se trovo degli indizi concreti, li controllerai almeno? Sì. Un detective in corsia ha un successo enorme in tutto il mondo. Negli Stati Uniti va in onda dal 93 al 2001, 8 stagioni, 178 episodi. E tra l'altro nelle ultime 2 stagioni entra anche Shane Van Dyke, figlio di Barry, nipote di Dick. Insomma, 3 generazioni di attori che si affiancano nello stesso progetto. Shane è stato anche uno dei protagonisti della saga dei Beautiful, dell'interminabile saga di Beautiful. Nel 2006 Dick Van Dyke interpreta Cecil Fredericks, guardiano notturno del Museo di Storia Naturale di New York, nel film Una notte al museo con Ben Stiller. Infatti, se chiedeste ai miei figli chi è Dick Van Dyke, vi direbbero è quello di Una notte al museo. È presente anche nei 2 sequel, Una notte al museo 2, La fuga, Una notte al museo, Il segreto del faraone del 2014, che lui interpreta a 89 anni. È il ragazzo che vuole essere la nuova guardia notturna. Certo che è strano. Ti faccio fare un giro. Questa è la sala diorama. Me ne ricordo questi piccoletti. Là sulla sinistra il tuo Attila l'Unno. E questa è la sala dei mammiferi africani. Carino quello. È una spassosa palletta di pelo, dico bene, Dexter? Qui di notte è un po' spettrale, magari vorrei accendere qualche luce. Ma ricordati la cosa più importante: niente deve entrare o uscire. Uscire. E anche quelle sono interpretazioni importanti, i film sono di grande successo e, come dicevo prima, pensando ai miei figli, gli danno anche una notorietà presso nuove generazioni. Pensate che è stato annunciato l'attesissimo sequel di Mary Poppins, dovrebbe uscire a Natale del 2018, e ci sarà anche lui che a 92 anni continuerà a ballare e a cantare. Quando mi hanno detto che si sarebbe fatto di nuovo Mary Poppins, ho pensato: i sequel per tradizione non sono mai altrettanto validi dell'originale. Ma mi hanno risposto: non è un sequel, è un omaggio al vecchio film, che è un bel modo di metterla. Penso che sarà bello. Io ho la parte del figlio del vecchio banchiere che facevo allora, un uomo anziano anche stavolta. E canto una canzone e ballo anche qui. Penso che sarà una bella cosa. Eh sì, è un uomo che non invecchia mai, Dick Van Dyke, e tra l'altro si è sposato 3 volte, e l'ultima nel 2012, a 86 anni, con una make-up artist appena quarantenne. Quindi insomma, avere una moglie di 46 anni in meno probabilmente insomma aiuta a non invecchiare. Lui ha avuto 4 figli, tanti nipoti, di recente è diventato bisnonno. Sentite cosa ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avesse intenzione di andare in pensione. No, è la cosa peggiore che si possa fare. Ho un quartetto di altri ragazzi della mia età e facciamo concerti di beneficenza dappertutto. Abbiamo cantato anche per il presidente a Washington e canto solo per il piacere di farlo. La gente, quando va in pensione, improvvisamente invecchia. Io sono sempre stato molto attivo. Sono solo cambiate le mie motivazioni. A 30 anni lo facevo per avere un bell'aspetto, a 50 per restare in forma, a 70 come cura, a 80 per sopravvivere. Ora che ne ho 90, lo faccio per pura difesa. Beh, e qui bisogna applaudire da standing ovation questo finale. Eh sì, una vita, una carriera, quella di Dick Van Dyke, piena di colpi d'ala, quelle vite che piacciono a me, cambiando territorio, cinema, televisione, teatro, cambiando attività, attore comico, drammatico, cantare, ballare, e così bisognerebbe riuscire a vivere, cercando naturalmente di volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.